casa. Vite e storie dietro l'azienda. Roberto e Silvia Dalla Valle, le lastre in quarzo di Stone Italiana, di Anna Marino. È l'occhio molto clinico. Tutti noi abbiamo un nostro punto di vista, un modo di vedere le cose. Però spesso si vedono delle cose che sarebbe giusto cambiarle, anche perché il progresso e le ricerche che facciamo sono tali per cui, essendo anche molto attenti a quello che succede nel mondo, chiaramente vediamo delle cose. Ci sono dei luoghi da cambiare completamente, dei luoghi che invece il nostro prodotto non va bene. Bisogna essere anche abbastanza critici e essere anche obiettivi in questo senso, per cui è chiaro che il materiale che userei di più è il mio materiale, e quindi è un prodotto ricomposto di quarzo e o di marmo, naturalmente nelle sue varianti di colore e combinazioni varie, per cui quello è il materiale ideale per il comportamento, per l'usura, per anche la possibilità di fare colore e quindi ambiente, e quindi dare anche delle possibilità di soluzioni particolari. Roberto Dalla Valle, presidente e amministratore delegato di Stone Italiana, spiega come l'esperienza della sua azienda di famiglia nel settore dell'edilizia e dell'arredo, lunga oltre 35 anni, porti ad avere un occhio clinico nell'osservare l'architettura che ci circonda. Stone Italiana nasce a Verona nel 1979. Produce materiali in quarzo ricomposto, ha 170 dipendenti che operano in due stabilimenti, Zimella, nel veronese, e Villesse, in provincia di Gorizia. Dal nord-est è arrivata ad essere azienda globale, con un export di oltre il 60%, con 80 paesi raggiunti. Roberto Dalla Valle gestisce tutta l'operatività dell'impresa con le due figlie. Paola si occupa di alcuni mercati esteri, Silvia della direzione commerciale e del marketing. Ho avuto un doppio input, quello del lavoro di mio padre che ho vissuto da quando ero piccola, per cui comunque sia anche da ragazzina, da bambina, si respirava in casa questa attenzione ai materiali, perché comunque anche girando in famiglia chiaramente si guardava, si poneva l'attenzione. Poi ho avuto anche la formazione, perché ho studiato architettura, per cui ho diciamo sommato le due cose. Questo chiaramente mi porta a porre attenzione a quello che vedo. Quindi gli edifici, le case, l'estetica. Secondo Roberto Dalla Valle è importante coniugare l'attenzione alla sostanza con l'attenzione per la forma. Il colore e il materiale sono elementi chiave della produzione. Io a un certo momento della mia vita ho cambiato completamente la mia storia, nel senso che facevo un'altra attività, ero nel settore della stampa, non della stampa di giornali, ma comunque nella stampa, nella litografia. Lo spunto è stato quello di portare questo prodotto, l'idea principale e portante è stata di portare questo prodotto o sviluppare questo prodotto portandomi dietro l'esperienza fatta precedentemente, e quindi il colore. Colore per me è stato sempre un punto importante, e da quel momento, quando ho deciso di cambiare la mia vita, è stato fondamentale per l'inizio della mia attività. Effettivamente non è stato così facile all'inizio, perché prima di tutto fare un'esperienza completamente diversa, lei capisce che si parte da zero e bisogna veramente creare tutto. Quindi io non ero mai stato in questo settore, per cui è stato molto difficile. Ricerca di prodotti, ricerca di materiali, ricerca di colori, le combinazioni, è stato veramente un duro lavoro, però posso dire che probabilmente la fantasia che mi era già dentro da sempre probabilmente mi ha aiutato molto. Dalla sua fondazione, Stone Italiana produce quarzo, marmo e cotto ricomposto. Sono materiali particolari ottenuti da un agglomerato di pezzi di marmo, quarzo e resine, molto resistenti, usati per rivestimenti e pavimentazioni, a volte per creare delle piastrelle che richiamano la graniglia di altri tempi. Dai processi di lavorazione, spiega Silvia Dalla Valle, sono nate alcune idee con un'attenzione particolare all'ambiente. Tutto parte dal quarzo ricomposto. Quarzo ricomposto, per chi non se ne intende o la persona comune, è visto come una superficie lapidea, cioè come fosse un marmo. La consistenza, la lucentezza, il colore, anche la freddezza del materiale, come fosse un marmo. L'unica cosa appunto è che è prodotto industrialmente, quindi non si vanno a rovinare le cave, ma cerchiamo per la maggior parte delle materie prime di utilizzare materiali di riciclo. Per cui c'è graniglia di marmo oppure graniglia di quarzo con una percentuale di resina, che vengono messe insieme come fosse proprio una ricetta di una torta, no? Viene mescolato e poi viene compressato o pressato sotto vuoto e nascono queste lastre. Dalle lastre poi si può ricavare appunto pavimento, rivestimento, elementi d'arredo, piani cucina. Oltretutto, essendo proprio ricette che noi facciamo, no? Si parlava prima di fantasia, le combinazioni sono infinite. Nel tempo abbiamo giocato molto anche riutilizzando appunto tutti i materiali di scarto. Abbiamo vinto anche un premio qualche anno fa perché abbiamo fatto una ricerca e abbiamo trovato il modo di riutilizzare le terre di spazzamento, che sono quelle macchine che noi vediamo, le monospazzole che passano a pulire le strade. Tutto quello che viene raccolto, quel ghiaino sporco misto, verrebbe portato in discarica e quindi con i costi per la comunità. Noi riusciamo, tramite un'impresa che associa un po' i comuni dell'internat milanese, tra l'altro, a riutilizzare questo materiale che viene depurato, pulito e messo nel nostro circolo produttivo, e quindi nascono questi pavimenti che noi abbiamo chiamato DNA urbano, dove ricicliamo il 45% circa di questo materiale che sarebbe da scartare e prende una nuova vita. Da sempre il motto dell'azienda è guardare al futuro, come testimonia il logo aziendale nel quale si rispecchiano le caratteristiche principali dell'impresa. È in dialetto ma in italiano. Sempre avanti. All'inizio nella mia porta del mio ufficio avevo scritto non dalla valle, ma avanti. Quindi a significare che guardo sempre avanti. Tenga presente che il nostro logo importante che abbiamo in questo momento è il rinoceronte. Quindi chi viene in azienda, viene il rinoceronte, non ho bisogno di dire avanti. Vede il rinoceronte e come sabato mattina abbiamo avuto un bel gruppo di architetti internazionali, hanno chiesto ma cosa vuol dire rinoceronte? Datemi voi la risposta, dico. E me l'hanno data loro. Vuol dire che il rinoceronte è l'animale che mira dritto, quindi va avanti, non conosce barriere, non conosce limiti, non conosce ostacoli. La crisi che ha colpito il settore certamente ha lasciato il segno anche in Stone Italiana, ma secondo i Dalla Valle ci sono due elementi chiave che hanno da sempre aiutato. Il pensiero è semplice, per fortuna estero, perché dall'inizio io ero proiettato all'estero, sapendo qualche lingua, potendo viaggiare da solo, non avere bisogno di qualcun altro che mi accompagnasse. Per fortuna è stata quella ed è stata la chiave degli ultimi anni. La chiave degli ultimi anni, siamo passati, lo devo dire purtroppo, da un 60% di mercato Italia, 40% estero, a esattamente il contrario. Per fortuna c'è arte e cultura. Noi siamo italiani, io vedo appunto anche girando l'estero che non c'è niente nessuno come noi, per fortuna. Perché comunque riusciamo a ingegnarci, riusciamo a trovare cose nuove e devo dire che anche i nostri concorrenti molto più grandi di noi come volumi, per fortuna non hanno la sensibilità. Io continuo a ripetere la parola per fortuna, è una fortuna o una capacità, non lo so. Comunque diciamo è il DNA dell'italiano, no? Dopo la storia di Stone Italiana, la storia e la soluzione di Delta Medica, network di centri medici specializzati nella diagnostica e nella medicina dello sport, creati dalla famiglia Massaro e oggi guidati da Stefano Massaro, figlio del fondatore, che ha creato il Medical Life Coaching, una specie di allenatore della salute. All'inizio era solo un laboratorio di analisi cliniche, Delta Medica poi è diventato un protocollo sanitario specifico per la prescrizione di un corretto stile di vita, supportato dall'utilizzo di un'app. Riferimento per oltre 120.000 individui ogni anno, di cui 50.000 sportivi. Stefano Massaro spiega come Delta Medica si allinea alla nuova tendenza dell'economia che sta diventando frugale e solidale. L'idea nasce dal fatto che da moltissimo tempo si legge dappertutto il problema della spesa sanitaria, ma non è un problema italiano, è un problema mondiale. La spesa sanitaria aumenta in modo vertiginoso per il semplice motivo che la popolazione invecchia, quindi questo è un dato positivo, l'aspettativa di vita è più lunga, la sfida è rendere le persone più sane più a lungo. Se prima ci si ammalava a 40 anni di diabete, per fare un esempio che è una delle cause della maggior spesa sanitaria, oggi dobbiamo fare il possibile perché la stessa persona invece che ammalarsi a 40 anni si ammali a 65, a 70, posto che l'aspettativa di vita è molto superiore. Medical Life Coaching quindi che cosa rappresenta? Così come il suo nome rappresenta nient'altro che la prescrizione medica del corretto stile di vita. Tradotto in italiano, tradotto in parole povere, la guida, l'allenatore della nostra vita sanitaria e medica, chi è? Viene a casa nostra? Delta Medica manda spessissimo persone, infermieri, medici a casa dei pazienti, proprio perché per noi è un valore fare in modo che il paziente, ove possibile, non vada in ospedale e non sia ospedalizzato. Quando invece è necessario che ci debba andare, è fondamentale avere l'appoggio di ospedali d'avanguardia. L'idea dell'app in che cosa consiste? Consiste che se noi accompagniamo il paziente a vivere in maniera corretta dal punto di vista alimentare, dal punto di vista comportamentale, e poi teniamo sotto controllo i suoi valori ematici, è fondamentale che il paziente o l'individuo qualsiasi possa monitorare tutta la sua cartella clinica, tutti i suoi valori, tutto il suo comportamento attraverso un'app disponibile sul tablet piuttosto che sul proprio telefono. Da che cosa guadagnate fondamentalmente? Mi piace che lei abbia usato il verbo guadagnare in un settore in cui sembra quasi che questo debba essere un verbo tabù. In realtà le dico come è nata l'idea da cui poi c'è stato il decollo delle strutture Delta Medica. Abbiamo fatto, stiamo parlando a questo punto di 11 anni fa, una decina di anni fa, abbiamo fatto proprio uno studio per capire quali fossero le tariffe più basse perché la struttura potesse rimanere solidamente in piedi ma garantire alle persone un'accessibilità sostenibile alle prestazioni sanitarie. Quindi noi non abbiamo mai ragionato in termini di profitto ma in termini di solidità. E da qui sono nate le tariffe più basse a cui le persone possono accedere oggi in Lombardia. Ci può fare degli esempi? Ah sì, una visita medica costa, specialistica, costa 60 euro senza tempi d'attesa, in tre giorni si prenota e si sceglie il medico. A noi piace che in ogni struttura il paziente possa essere riconosciuto sin dal momento in cui varca la porta. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.